Friuli nel mondo. 243esima trasmissione dedicata agli emigrati. Natale nostro. La dolce e serena poesia del Natale ha avuto modo quest'anno di manifestarsi forse più intensamente che mai a causa del clima di austerità imposto dalle note restrizioni. Lo si rileva appieno anche dall'augurio che il poeta Dino Virgili ha indirizzato a voi, cari emigrati, affidandolo al nostro mensile. Ascoltatelo. Buenis fiestis. Bon Natal, Furlan Spalmont. Bon Natal, anche che stan. Culino che stan, non impierin illusors colorats sui pinuts dai giardins di lungli stradis, no fasarin lis luminaris dai borgs de città, o impierin appena un moment il presepio tun chiantonut di chiase. Al sarà un Nadala e vecchie, dongi il fogolar come une volte che s'impiave dom li schiandelutis de cereole. Un Nadal forsi, come che ualtris furlan spalmont, si visais di velu passat magari di fruts tal vuestri pais. Parchel, non sarà manco l'usuros che Nadal furlan spalmont, al sarà forsi un pluibiel Nadal, un Nadal di chiase, dongi l'altris, cences un sur, cences flandors, cences chias. Il bambinut al tornerà a nassi nut e crut tal fred e tal scur, incidin. Ale parchelmo, calcovento un po' plui di cur che stan furlans, par schialdà e par illuminà quest santud di Nadal, al mancul dentri di no, dentri dai nestes riquarz. Bon Nadal di stes, furlan spalmont. Bon Nadal e bon an 1974. Condutti il nestri cur di fradis, restats culi a chiantà la pastorele e alla torcula comete come i frut dai pais, anche per ualtris, coses lontans, e che, come in ches dis, s'impensais dal nestri Nadal furlan. Auguris in alore, condutti il cur, furlan spalmont. Auguris di buinis fiestis. In Friuli, la caratteristica speciale del Natale era fino a qualche anno fa, ma in alcuni paesi per mare ancora, il canto dei notturni o madins, dal latino ad matutinum. Madins è infatti la denominazione della messa natalizia di mezzanotte. In attesa che le mistiche funzioni avessero inizio, le famiglie si raccoglievano intorno al focolare per l'accensione del grande ceppo, qui chiamato Nadalut o Nadalin, che doveva ardere fino all'Epifania. Prima dell'accensione, il ceppo veniva asperso con l'acqua santa e con l'olivo appeso dietro la cappa del camino della nonna o dal più vecchio della casa, perché, come dice un proverbio, la virtut dell'aghe sante e passe siet murs. E sul Nadalut venivano cotte le rape e le castagne lessate che si consumavano bevendo la bulide, una specie di vin caldo con l'olio, entro la quale veniva inzuppato il pane arrostito pure sul Nadalut. Lo ricorda anche il poeta Giovanni Lorenzoni nei versi di Nadal di une volte. Mi riguardi in chimò di quel presepio che malfaseve quei rifrut mio pari, e riviot che i pastors che done mari mai faseve di peciot, o io riviot, eri in gran, masse gran. Tanche urrivava il quel e il chiaf parzore de stalute, là calstave un bambin tegrepiute, poret cencio ne giambe e cusi crot. L'ere Macor cul sivilot e all'ere Bernard cul chiam fedel che lu guardave, Martin con quel violin che non suonave e doi tre altri che non vevin non. Erode tun chianton plui alde chiase e gli spioris plui grandis de vaciute, i res che leve in vie cula flaciute ogni doi di su un pass, par un stradon. Ramaz di pin pal bosc levi a robaiu in tun giardin di siors o in cimiteri. Ma se savessi, c'è content coeri di stacchia là che il mio prese più. Mi riguardi anch'io de pastorele che si chiantave vie pegnot serene. Mi riguardi anch'io che lune plene così lave a madins quando queri fru. Nada, c'è biele fieste e c'è ligrie chiatasi ducchia chiase tal chialduc, dongi un buon got di vin in compagnia dei nestri sviei, calpar di tornafrut. E poi, muniti di un feral o di una lume de pin, quando la luce elettrica non esisteva ancora, per vincere l'oscurità, si partiva alla volta della chiesa, mentre ai piedi si calzavano gli sdalminis di Glacins per superare le insidie del terreno ghiacciato. Nell'alta valle del Natisone era viva fra i ragazzi l'usanza di portare in giro di casa in casa un bambinello di cera sopra un cuscino infiorato e di cantare una nenia in onore di Gesù Bambino. Mentre da secoli in Carnia i giovanotti ripetevano pure con ingenua monotonia, passando da casa a casa, una specie di sacra rappresentazione in friulano che canta dei pastori di Natale, la canzone di Nadal. Attenzi di quan, stai a sentì una canzone che fa stupì. Quan che nasce il nostro Signor, essi una stella di gran splendor, mi par di viodi che fosco lì, lusive la lune come un biel dì. Chianti indignotti uceluz, scherzin e sberlin in agneluz, e par di instati in ogni luc, si fa sentì anche il cucù. Florivi in monts, e chiams, e prats, violis e roses in quantitats. Quattro pastors che stavin attents a passonare i loro armenz, mentre che stavin a pascolà si mettin insieme a fevelà. Di ogni pastore era il suo nom, Zanut, Lenard, Macor, Simon. E in quel discorso cussi devot, all'era il pont de mie genò. Calà dal cielo un agnul biel, si dis calere il Gabriel, e in viers di lor vignis volant, e lor puarez si lavin chialant. Fermaisi pastors, kenti da cis, che io us darai un biel avis. Ves di savè che l'è nasut il Salvator in forma di frut. Du la calè vono savès, in tuna stala luciatares, tremand di fred, quasi inglaciat, il bo e il mus l'uscial d'inculflat. E vo pastors, no staitai, laita chiatalu sul fa dal di. La sait chiavai, mus e tut quant paradora quest biel infant. Intant che io agnui, a mil chiantin la gloria e svolin in ciel. Ma tralasciamo le rievocazioni di tempi ormai tanto lontani e ascoltate, amici emigrati, l'augurio canoro che il coro del Fogolar Furlan di Windsor, in Canada, vi manda con campane suonate. Suonate, campane, suonate, chiamate le genti al Signore. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.